mente attiva, che aspira a sintonizzarsi sui ritmi dell'ecosfera mentale iperconnessa. In questa rimodellazione l'ingegneria nootropica svolge un ruolo essenziale. Forse presto anche l'ingegneria neurofisica, l'impiantazione di chips elettronici nei circuiti cerebrali potrebbe operare l'effetto di adeguamento e di sintonizzazione.